cane, io altro che dormito sono, non sa che dorme non piglia pesci. È vero. Lui. Anche io ho fatto tante cose. Tante cose. Mi sto aspettando che venga la 25 a prendermi. Viene, non glielo ho detto io di non venirci a pigliarsi. E se non vai, mi faccio un piacere. Vai, secondo, ho fatto doccia, barba. Pronto, sì. Lui l'ho portata stamattina, colazione, tutto ho fatto, tutto. Anch'io me ne sono andato presto perché sennò il lugano bisogna buttarla, fare i bisogni giù. E beh. Adesso lunedì la lavo, faccio il bagno. E allora? E allora? Cambiamo giù, dopo pure la etta. Qualche giorno vengo con Curta e gli faccio fare il lavoretto a quella lì. E ormai è vecchia, cosa fa il lavoretto? A parte che si gira. Sembra da cui si gira l'una, ma hanno minori. Tutto di non caro di si gira, sì. Ma pure se in calore si chiamano Mattessi, no, non amo la dubbi ma la mollava. Sì. Ecco qua, ma non è l'una. Allora si fuma gli spinelli la mattina presto. Sì, se li fa in vena. Che bagata. Cioè se lo guarda chi si fa in cadagata. A me che così almeno faccio girare l'elicottero. E se guanti niente sul televisore, altro che l'elicottero riesce l'elica da dietro. Vede a me guidando l'elicottero, vede quello lì. Che idea. Oltretutto, che diciamo il sistema la spesa è tua e non li può fare. Chi si ammazza lì. Fermi, a due io gliel'ho detto, che gliela faccio voi io l'antenna. A spese mie, in modo che non lo disturbavano, pigliavo gli stessi, le stesse antenne mie, con l'amplificatore che ho preso io, e non lo disturbava. Mica il cazzo si sono rifiutati, avevamo i biglietti di conseguenti. Vabbè che io non posso usare apparecchi che non sono omologati, ma non me ne affrutti nulla. Vabbè, durma a te si riporta a te. Che non viene, tanto mi hanno denunciato, lo so che mi hanno denunciato e vengono a controllare qua. Non mi pare vero, così almeno vedono che ho l'apparecchio omologato, mi rilassano il verbale, tutto regolare, se viene qualcuno a rompere il balleno credo che non tieni, subito. È un casino da tagliare, poi ci sono, non a quelli veli, però a me mi tagliavano il cavo. Vengono a tagliarmi il cavo, finirise con le mani, con i tagomini. Cosa vuoi fare? Purtroppo un casino, ragazzi, qua l'attimo. Vabbè, ma adesso grazie a Dio non ho più disturbato, da quando siamo passati digitale. Adesso io disturbo lo stesso, anche se è digitale, disturbo ugualmente, perché hanno le antenne marce quelli. Sono le antenne? Allora, un vero con l'amplificatore sarà tutto pieno, deve mettere tutto rugginoso in chi. L'ho passato a raccontato, è logico che disturbi. Ma sono le antenne hanno macchia, cervello, sanno virane. Poi ci sono giunti a minacciare a me moglie di nocchi. La giudice non ci venga più qua, se no la denuncio, da Robacone la giudice. Non ci venga più. Anzi ho fatto male a non chiamare i vigili quando la stava minacciando. A Roma ancora viene pigliata in fragranza. Chi è da non abita in occhi? E lo so da Roma abita in occhi, è da abita in un altro vicolo. E non poteva uscire. Ed è venuta a casa a fare lo scandalo a mia moglie. Ha detto non ci venga più qua a me. A chi se non la so così non tiene Mazzulkin che l'ha giudito. Ma voglio cosa c'è, tra mica parla lì, se mi ripiglia con te, con tuo moglie. Ma che io non do confidenza a nessuno, allora se la piglia nicunetta. Non è che io non ne do confidenza ai saienti, gentaglia, cazzo. Ma sanno con qua, ma in realtà, secondo me. Tutti rogati sono. Radio la mia, com'è? Perché io sto usando quel microfono suo. Va bene, Natalia, a me io ti ascolto bene. Sono attesa ai microfoni per amplificati, dice bastardo, direi apparecchio. Apparecchio più bastardo non ne potevo comprare, ragazzi. Va, la presa di Rughevo va, a 8 pin. Ehi, se lo buono in mano a Fabrizio, adesso mai non ha tempo, ma già ci riesce, vedrai. E non l'ha guardato Fabrizio, non ci è riuscito a piazzare l'MB più 4, in più dice che è rotto l'MB più 4 mio, funzionava bene quando era attaccata a Romolo Gatto, è stato un anno fermo in campagna, non penso che si sia rotto. Ma perché non te ne sei in campagna, Natale? Rosazio, campagna. Già lo so. Queste donne. Perché si va in campagna? Mo' di fare un cavolo di mare di piazzi, tutto visto che fuori, mi sono rompere le balle. Non lo so. Secondo me chissà di raffitti, se lo badoia e te in campagna. Altro che, in chi me ne sei rimasto proprio? Voi? A parte che vado sempre un parcheggio, dove cazzo gira che ti gira, sì, per concetta magari è un po' fuori mano, perché lì è un po' lontano. Magari se ne affutti, si beve solo il tram. Solo che mia moglie soffre di bronchite asmatica, lì in inverno fa un freddo che ti pisci sotto. Non è che subito la ricoverna i pedali, è per quello che io non ci vado in campagna. Ho capito, vabbè, Natali, si per freddo in campagna, penso che vi sia tipo una stufa a pellet, cagli la casa, se ti stai pure per freddo, è normale, pure in chi vi d'inverno per freddo, penso . Ma qua abbiamo la stufa a cherosene e anda, e cagli bene, capito? Ma non è nero, ma in chibi cazzo tocca farmi l'antenna, che sopra un paro di 12 metri mia l'antenna mia, non è uno scherzo. Da poi bisogna aprirsi la mia cava intatta, e bisogna metterlo vicino a casa mia, bisogna metterlo il palo. A chi è nella casa dove dei miei genitori, dove abitavo prima io, il palo. 12 metri è alto, ce ne vedendo la manto fa 5. E paghi su, in 3, in 4 ne la faremmo come se niente fosse, va. E in 2 pezzi rubare intanto, bisogna cavare un bullone e ci si fa la rasura, la mantengo, solo che a toglierne l'antata da lì, perché i radiali si rompono, io penso, non lo so. No, la abbassi, una volta che la abbassi piano piano, che arrivi alla tua altezza i radiali li stacchi, no? Li stacchi, io li leghi con la lenza, parte su. Non li arrampi direttamente a terra, entra in quattro, insomma ti li arrampiamo a terra, va, è un giubbo. Sì, già lo so, non è che si presenti a vederla se ne avvali, a Maragana. Non mi servo per Claudio, io, proprio non ce ne sono, c'è Massimiliano, chi si diviso? Cavallo. Ma non mi disse che cazzo mi avrà venuto in una casa mia, la pongo. E così cazzo, tanto mi devo mettere le zanzariere, mi devo mettere per lasciare le finestre aperte, se le ho già, è già tutto pronto, devo salire con un amico mio a fare. Adesso ti fai la stazione su e fai la radio su e poi te ne rientri a casa. Sì, anche posso fare così, quando mi devo caricare le cartucce me le carico lì. Adesso mi vedi l'estate lì con tua moglie e poi d'inverno se me ne scendete giù. Ma neanche io ti può stare, ma l'inverno è l'ossio. L'inverno bisogna stare qua. Ah, Concetta, buongiorno. Ciao Luca. Buongiorno, buongiorno. Già bella la campagna. Che piatta chi ce l'ha la campagna? Da ripiazza a macchine, ma in chi mi cazzo, si da ridà urgelo, in chi mi fa un freddo, cazzo. Sì, non per niente, Sassari, in chi mi viene mezzo metro di neve, quando fa di neve. E rimane bloccato una chiesa, in chi mi. Ma non è affilichetto. Ma è dietro a Usilo, dove sono io? È dietro a Usilo proprio. Campagna, campagna, sono cazzato a Usilo io, in chi mi. No, ho capito. Vabbè, ti puoi fare il figlio in Chivina sta lì, a voglia, e mi sono di rompere le balle, e poi fare i suoi balli di piazzi. Ero grampaldita. Mi controllo la lavatrice che mi seguo la vendita, sto facendo un lavaggio di roba, aspetta un attimo. Sto ginocchio, da. Ancora andenti. Ancora andenti? Faccio comprare da roba, bella, è micidiale, una bombetta. Tirava la roba che la Maria allucinante, poi la... questa asciutta ne esce. Come la mia, chi dai va più prima, guarda, a confronto me, non non lavava come lava questa. Questa qui lava benissimo, questa nuova che ho preso. Ma cosa a me mi ne esce il ruggettello? Ha fatto via rumori. Sarà spaccato l'almerino sicuramente. No, invece quella che abbiamo buttato è la vecchiotta. Facciamo vedere il rumore del cuscinetto. No, questa qua 5 anni di garanzia, 350 euro. Adesso mi ha dei fusa poco, nuova. Cazzo, mi dice di Ruggestello, ha fatto un rumore, cazzo, la bomba, pari. Questo è un bisciù. C'ha 1200 g il motore anche. Quella c'avevo prima 1000, poi questa, quella di prima era 5 kg. E questa qua è 7 kg. A me pare sia 7 kg. Ehi, l'ho presa buona, l'ho presa, già. La va benissimo, a confronto, cazzo. Li connetti di ricamissimi, bianchi della neve. Non si immagina. Se vi aiuto la mando. Aspetta, là. Quell'altra non lavava così. Questa lava bene, l'altra. Mi aveva trovato la foto, l'altra lì. Poi l'ho presa così perché l'altra era uguale. La so usare, l'altra, se ne prendevo un'altra ancora, casino. Questa è turbo diesel, mi ha detto lì. Pare che comincia la mia. C'era quella meno costosa di questa, io ho preso questa qua che costava qualcosina di più. Ho aiuto la differenza di 50 e passa euro e da 2 anni a 5 anni di garanzia. Adesso ci abbiamo solo questo qui, cazzo, pucci, cazzo, non mi piace nemmeno come a vederlo, il baracchino. Vabbè, se vuoi fare baracchino, se vuoi fare radio, purtroppo ti dà la chissà. Anche se è poco mai sicuro, infatti non l'ho toccata nulla, perché è omologata questa, non si tocca. Gaba gaba, Natalino, gaba gaba, la dignità che la curita. Ecco qua, va. Senti questa mia, gaba gaba. Era quel franco, se non mi ricordo dove era, della Spagna mi pare, no, della, non mi ricordo, cazzo, 9.30 li sono arrivato, io Massimiliano. Cioè io e Gianni, no Massimiliano, non fosse Massimiliano, ma Massimiliano. Vera propagazione buona, si arrivi di usi. Sicuramente. Massimiliano, non avevano 2001, se non sbaglio. No, sarà venduto. Yeah, però farne uno di quelli. Di che cosa? 2001, ragazzi. Quello è bello, ma anche questo sto usando io, va bene. Questo qua per fare gaba gaba. Ma che è bello. Se non è che ne ha qualcuno Gigi Vulcano. Mi sa che di no. Mi sa ne ha due o tre, ma se li danietto. Non mi chiede modificati, no? Normale. Mi serve che abbia i canali, le SSB. Ah, beh. E poi c'è l'altro Typhoon della Marina. Già lo so, sto Super Sart 2009, uno di qui ne devo buscare. Cazzo, solo che non ricordano il gruppo, cazzo, che sono troppo giusti. E poi non mi vuole caricare la carta, questa del tabacchino che, no, che ha finito la ricarica pure lì, non me le può ricaricare. Guarda, ti mando questo qua, è meno costoso, guarda. Se no superano i 200 euro, qua con 178 euro lo prendi nuovo. Nuovo di pacca. Se no è oltre 200 euro, guarda WhatsApp. Cliccaci sopra. Questo è meno costoso. Ce ne sono tre disponibili. Questo è omologato, attenzione, omologato, poi se lo vuoi espanso. Come comprati questo qua, Natali, che esce bene. Ce l'ha Marcolino Condor. Però esci bene, con un baracchino non ti si tocca. Però costa, io l'ho visto anche a 230 euro, uguale identico. Questo qua 178 euro spedito. Di cui 168 fallo 180, dai, fai 168 di baracchino e 12 euro di spedizione. 3009 questo è. 4 watt. Questo lo potrei dire così, esce molto meglio di quello lì che c'è adesso. Chiaro credo, se mi raggiungete Marcolino, se mi rovindia una tua di chiedimi, non me ne ha voluto dare. Ah, compatti, questo qua è nuovo e sai che nessuno l'ha cagato, no? Anche se quelli di Marco sono nuovi, capito? Tu occupare il G9, allora sono 163, facciamo 165, 165 più 13, 175, 170, 180 euro di bene, con 2 anni di garanzia, ma almeno c'è anche la garanzia. Poi se ci smanetti sopra la perdi, perché c'è 16 euro di garanzia nelle viti, o nei tappi, comunque sia, cioè, una volta che spacchi quello si è fregato. Sì, lo so, togli l'omologazione praticamente, già lo so, è rubato casa mia. Cosa ti volevo dire? Non riesco a caricarmi la Poste P, perché la Poste P non la può caricare il tabacchino mio, che ha finito la ricarica e ancora non gliel'hanno mandata, siccome non è illimitata. Anche loro se finiscono la ricarica non ti possono caricare a casa. E non posso fare nulla. A chi ti sarà incontrati raggio, ma no, non posso caricarmi la casa, e chi suoi mi rompere il palle. È per quello che lo volevo da Marcolino. Gli davo i soldi contanti a lui e basta. Guarda, se vuoi fare la ricarica devi andare in via Petrovica, lì te la fanno, vado sempre lì io, perché da lì da un anno ha finito la scorta, ha superato il limite del budget che hanno loro, no? Sai che sono 1.000 euro, boh. Sì, anche questo di qua, finito il coso, la ricarica che gli fanno, perché loro gli danno un limite, no? Tanto per dire altri 30.000 euro, per esempio. Se superano i 30.000 euro, la pone più caricata, senza che non rimandano la ricarica nuova. Beh, ho capito. Vabbè, comunque, puoi andare al tabacchino di via Petrovica. Che bello quello 3009, bello, bello, bello. Lo so che è bello. E mi sa che un pensierino proprio forza, me. Ma Luca? Ho detto che un pensierino ce lo faccio, ce ne sono quantità disponibili 3. Sa da poi quando ti arrivi, fra un mese, minimo. A me la fine per me è arrivato da poi 2 mesi. Consegna stimata, 11 maggio, 22 maggio. Mi sta arrivando da poi dire 22, come ti è successo a me, perché sono in ritardo, stai vedendo la roba. Ma io sto ordinando, se bene mi arriva qualche giorno di ritardo, ma un giorno, massimo 2 giorni. Se no non è che mi arriva dopo 10 giorni di ritardo, assolutamente. E questo qua arriva sicuro sicuro l'11 maggio, ma il 22 maggio arriva, sicuro sicuro. Già mi avverte quando gli mandano la carica, questa dice, del tabacchino, no? Così vado, caricamela da 200 euro, e ando e mi ruginetto. Cosa vuoi ti dire? Io di chi sono posso fare? A me non è legato quello, capito? È un maracchino me legato. Se non è me legato è me leccano. E pure uno vostro pensierino va. 4, capito? Vuoi fare un gatto di voi? Senti, pure un vostro pensierino va, vedrai. Tu lo dire vuoi comparare? È bello, bello, mi piace un bel. E 3009 è di lusso. Solo che c'è il BIP che non lo puoi levare, quella fregatura. Ma cazzo se ne frega, tanto è me legato. E magari qualcuno dà fastidio il BIP, capito? Ah, pagisco, lo so. E io vi lo dà, cosa me la fa? Ma te lo vuoi ordinare? Me lo voglio ordinare, ma è solo la carta scarica. Se riesco a caricarmi la carta me lo è bello, bello. Almeno siete tranquilli e tutto. Mi fai molto molto meglio di chi scriveva. E puoi fare. Cioè puoi fare modifiche, che c'è il PIN a 4, ora non ti fate a casa del MBP4, senza farlo pompare troppo, puoi aumentare di watt, tante cose puoi fare. Fai un po', c'è un ponte, c'è un coso dentro, no? Lo stacchi, fai il ponticello, ci metti 2 secondi e c'è i canali. Jumper, cioè, come nel computer. Diciamo jumper, jumpy. Il jumper si può fare tutto. Che gira gira me lo prendo non omologato, tanto io l'omologato li devo pagare in più. Ma c'è sbagliato, prendi questo qua che è omologato. Signore, tanto dietro c'è scritto omologazione, il marchio c'è. Che te lo fate qua? E subito te lo vendi là, adesso che brava. Questo fatto così. Quello te lo vendi 1.000 euro, 1.200 euro. Si costa 70 euro. E te lo vendi 1.200. Sì, perché i 120 canali che ho io, quasi un rumore in ricezione, così fammi quando fa. E per non farlo devi mandarlo fuori frequenza, col clarifier. qual è il baracchione? Uno della CTE, 120 canali, ma è bello mica, se trasmette anche bene. Basta fatelo controllare, ma c'è qualcosa che non va. Qualcosa che non va? Ma vedi ti spaventi? Dove ti siedi? Davanti, vicino a Marina ti siedi. Ma ti puoi sedere? Cosa è andata lì, scusa? Quando sei in macchina con Marina, vicino a lì ti siedi. No, dietro. Pur qua? Mia moglie si può sedere dietro. Ma certo che sì. Chi vuol venire a fare la spesa con me, ma mi pare ne puoi entrare un solo. Sì. Vabbè, fate indifferente, entri a due, un carrello. Una cosa tra burletta. Scusa, ma ti finta che lo siete assieme? Da una mano, un casino. Ma saluta, sono andata a rasura, fa. Aspetta un attimo, Natali. Cabagada! Pagava, cabagava. Ma uscire di qui, Natali. Cosa, Lu? Ho detto, se devi uscire. Uscire? Devi uscire a fare la spesa. Oggi no, cazzo, ci stiamo attuando, mi sarà un mondo. Spesa la lista mi stava facendo. Ho capito. Cabagava! Cabagava, cabagava. Ma lo sai quando ti riposto girare una volta mia che c'è a Parì? E chi pure grossa. Ma concetta lì, Se mi prendi la lista direi Pisa. Concetta, ma è vero che è curto e cocuomane? Sai che ti rispondo? E tu, cocuomane? No, secondo me curto è sempre dormito e cocuomane, secondo me, io lo vedo sempre dormito. E tu? Ah, non è lui cocuomane, io no. Cocuomane è curto e il padrone. Ma lo sai che dormi davvero in lampada cadria, se puoi, nel cuscino della sedia? Ed è addormentato lì. Questi cani non fanno altro che dormire. D'estate, d'inverno, sempre zumbiti so. Vabbè, la mia c'ha 12 anni con la rete, ma che sta bene. Non si lamenta, però già non sta bene. C'ha 12 anni purtroppo, si ammalano. Che anni c'ha l'una adesso? Come si sa che era minorita, minorita? Fatti il conto, dal 2008, siamo nel 2020, 12 anni fa. La rietta mia è morta a 12 anni, mi l'hanno ammazzata. Bastardo. C'è un altro gatto, un gatto morto, è morto a 12 anni. Oh, che è quello di Mario, c'aveva 20 anni. E mi pare che è ancora vivo, che sono i mesi di Mario. Il cane di Mario, il gatto di Mario. Mai, adesso glielo chiedo, quando sono in campagna. Il 13 luglio fa... fa 20, 12 anni, l'una. Il gatto me l'hanno ammazzato invece, quella gatta che c'avevo io, 12 anni c'aveva lo stesso, però me l'hanno ammazzata, non è molta di malattia né niente, bastardo, il buffone l'hanno dato, se vi ha fatto io vi fatto mangiare io a essi, il buffone. Ma infatti a l'una io, la porto a mio fratello, non tocca niente alla terra. Perché sa mai che qualcuno metteva che boccone, comunque raccolgo quello che fa, butto l'acqua se piscia. Io ho le buste nel guinzaglio, no? E la raccolgo con quelle buste. Poi ovvio, se sono lontano che non le butto l'acqua, non le butto. Poi c'è la casa sì. In la casa tua sì. Io la porto vicino lì allo Seto, però porto vicino alla fontana di Roseto. Da lì a casa è Duvati e Miazzo. Da voi si può andare a pisciare, ma vedi, lo porto da là in occhi, tu piscia e si nasce. Ah, vi avvisa? Vi avvisa. Qua non fa nulla. Mi avvisa se deve andare a fare la pipì su lui. Mi avvisa, io lo chiedo, no? Edo mi riposo. Allora, c'è questo ragazza che vive all'estero, no? C'è questo cane tipo col muso lungo, insomma, di cose, era, non mi ricordo che razza è, vabbè, e gli dice lui, lo chiama per nome e gli fa, ma coglione sei tu, è un cane in pazzo di capo, sì, e tu dici, davvero, è allucinante. Ma vero, guarda, questo qui si mette a bagliare, dico, cosa vuoi? E io rimane fermo così, e dico, ma la pipì di fare, e dico, va, e muove le zampe davanti, tutti vanno a fare la pipì. Ma Brian è guarda, infatti, da rompere un musicino, fa la pipì e se ne sta. Vabbè, vedo così. E manchi l'una a volte mi grattugia la porta. Ma dove ci fai frutta? Ti parti con i rugani, altro che noi. Dopo i rugani non comprendi. Se gli dico quando si mette a bagliare, dico, ma la pipì devi fare tu no? Allora dico, dopo mangiato me lo fa quello. Ma la nanna vuoi fare? A che si tocca vicino a me? Sopra Rudinsuru, no? E dico, quanto è tutti può fare che si può cucare? Tiranno il uretto che si può cucare. Poi sono i cani, sono. Stanno sempre a riposo. Poi lo sai, io ho usato il computer, magari dopo prendi cosa al computer. È prepotente perché se mi abbaia sotto. Aspetta un attimo, a chiedo voi che io andai e mi do con esso, compreso? Che sta con mamma, com'è no? No, il mio letto non ci sale. Oh, lo sa, no, no. È capitato che mi ha approfittato che non c'ero, se no non ci sale. Pure è abituato così, mai tu gli ascolta bene. Però voi che andate con cammino, se non vi so qui io non si tocca. È la stessa cosa il cane di Marina. In terra. Diciamo quando era piccolo ma se lo metteva sul letto, ma adesso che è grande. E vabbè, ci sono chi se lo mette nel letto, ce ne sono tanti. Comunque io avevo il pastore tedesco e si coricava in terra nel tappeto a fianco a me, a lui. Però cazzo una volta via cucassi con me, cucassa via le mie pincatinate, 40 kg di cani, a lui io cami, mamma mia, mi nasci in dato, pastore tedesco lo fate che io ho bisogno d'affetto, capito là. Cazzo me ne è brincato in alto, ero cucato, voglia, ma se mi dà una su più. Aspetta un attimo, Natali. Come che è, bravo? Ui, Angelino, buongiorno. Cara gara. Tappa, un Natalino. Ma quando ti arrivo il segnale, Angelino? Me l'avevi mai detto, ma ti arrivo il segnale, non un po'. Prova, prova. Vai, vai, gli si andendi. Aspetta, tu, fai stai calmo. Quanto ti arrivo, Angeli? Ah, ok, la radio è buona, sì. Ah, ok, da. E beh, Tore. Tore! Ma la fai tutto. Perché? Dove lo butto? Sto casa tua. Sto passando, tra un po' passo, lo butto lì. C'è il cassonetto, passa tu dopo, eh? No, secondo che il microfono è, me ne lo puoi arrivare direttamente e basta, solo il microfono, è tutto il resto del bene. Sai, ho trovato in magazzino un alimentatore da 3 ampere, ma sta funzionando. Ce l'ho pure io, là, ho sistemato per alimentarmi la luce del rosmetro, ce l'ho pure io. Poi ne avevo un altro, me l'avevo regalato, l'ho sistemato, bomba, poi ha smesso di funzionare. Qui si dura un po' il gomito. Ah, lì sta funzionando, altro che. Mi c'ho questo apparato qua attaccato. Io ho attaccato per provare. E te ne vai puro. Ci va un coso dentro. Ed è con il condensatore, va, il mio condensatore. Guarda un po' se ci arrivi già ad Alghero, prova la fertilia, là. Com'è che si chiama? Non so se ci arrivo, penso di sì però. Anche così è bassa? Buongiorno anche a te, perché ero lontano dal microfono. Però adesso il microfono sono vicino e mi senti più forte. Comunque si chiama Angelino. Angelino, forse ci conosciamo, ma nuovo sei o di quegli anziani? È giovanotto, non è una persona grande. Angelo ci chiamava. Andave, vabbè, da. Te ne passo a Luca. È più piccolo di me. Sei anche natalino, avanti Natalì. Un attimo, dai, che sto facendo cosa qua. Aspetta, non ho capito. Cos'è, più piccolo di me? Vabbè, io faccio 46, come si dice, sei più piccolo di me di qualche anno, capite? Io faccio 46, Angeli. Cosa c'entra? Ma sempre più grande di te sono, cosa c'è? Può essere anche un mese, sempre più grande di te sono, cosa c'entra? Gabba. Frate, più grande di te sono, cosa c'entra? Ho 20 anni, ho 10 anni, non c'entra niente, sono sempre nato prima di te. Quando io avevo 2 anni tu non eri nato, capito? Quando io avevo quasi 3 tu non eri manco nato, quando ho fatto 3 anni sei nato tu. E allora, Gabba? Schirriggia. C'è Tore. Tore, come mai sei ghizzurano? Non ti ho mai inteso ghizzurano, eh. Tutto ho fatto, hai. I piatti, il pranzo, apparecchiato, tutto hai fatto. Ebbene, pensa un po'. No, io stavo provando questo alimentatore perché stavo cercando, c'avevo tanti anni fa una scatola in lamiera, e più c'avevo scatoline in lamiera che ne sto cercando qualcuna. Più che altro è entrato in mano alimentatore e PL e cosa non mi è entrato in mano, è un sacco di roba mi è entrata in mano, è per quello sto mettendo, ho messo a posto il magazzino anche un po', ma la roba vecchia non aggiungava ad un montone. E sta cosa, quando lo conservi, non è così, poi ti ritrovi, non mi ricordo, c'avevo uno spezzone di capo grosso con i piedi quelli buoni, mi aveva dato la buona anima di Tore Alan Verde, ma non so se l'ho regalato, non so dove l'ho messo. E poi un altro spezzone che lo usavo con l'altro rosmetro che mi si era rotto a casa della mia 25, poi non riesco a trovare questi piedi, spariti. E vabbè, niente, poi io non ho molta roba, ho 3 baracchini, poi ne ho 2, altri 3 che sono rotti, pezzi di annaggia, voglia, alimentatori, uno si è rotto, uno l'ho regalato, un altro l'ho messo a posto l'altro giorno, poi ne ho uno di quelli switching da 30 ampere, ma di chi se non si viene a nulla, va, fa carità. No, io, questo qua è vecchiotto, ma ha già visto che è abbastanza resistente. Ho visto che è abbastanza resistente a tutto quanto. Ha già buttato un fusibile nuovo ed è funzionante. Mi sa che io rubo un gonga che è lungo. No, stai arrivando bene, tu, alla grande. Ottima, la radio, segnale quasi 9.30, sì. Se attacco quell'altro, arrivo più bene da Coso. A Fertilia, arrivo molto più forte anche. L'antenna sta rendendo bene. Ma sai quelle antenne c'è Angeli, Tore? L'antenna autocostruita, la Game Master, gliela ha fatta Luca. Esce bene, si fa sentire dappertutto. Si fa sentire. Intanto tra un po' arriva la mia 25, vi saluto, a riprendere la domenica sera. Tu come lo senti, Tore, Angelino? Bene? Del radio è 4 o 5 mi oscilla, del radio, del segnale, però la radio è un po' bassina, ma già lo capisco però. Lo sento bene. Adesso più bene mi senti. Questo non sviluppa molto come coso. Positivo, frate, la casa è bella, gabba. Ma io sono al minimo qua, amico, questo qua, allora c'ho il mic in a mezzogiorno, la radio è forte. Qua così a mezzogiorno e così a manetta, 1, 2, 3, prova, cambio, aumentato va. satra, perché era peccato, se non tengo peccato la mocca, se lo tengo così, non credo che sia satra, è più chiara, là. Ma ti ascolto bene, Angelino, non c'è problema. Ti ascolto bene. Guarda, io ci avrei scommesso, oddio. Secondo me da me non arriva, eppure arrivi, come? Arrivi bene anche. E hai una mezza, come si dice, una mezza onda, così è. Stai radiando bene, dai, va bene. E sei anche un bel po' distante, non è che sei vicino. E vabbè, dai, che non pianto. Prova ad attaccare l'altra, fagli sentire l'altra radio se sei meglio. Non lo so, vedi tu, vedi te. E quello deve scaldare. Se non scalda non cammina. Fagli un po' cusotto. Quello deve scaldare per camminare, per arrivare forte da lui. Cercando 271 canali, non è che qualcuno ce l'ha per caso? Sei mai sotterrato a Angelino? Ma qua non arriva Angelino, ho capito che c'ho l'antenna bassa, la colpa è mia. Ma tagli, ma che radio ti serviva? Ma che abbia tutto, FM, SSB, che abbia tutto, capito? Una radio completa mi serviva. No, quella di quelle non ne ho. Ce l'ho in AM e FM solo. Luca, farà tu di sì. Evidentemente è arrivata la 25, capito? Dove va andare con la 25? No, no, no, sono qua, dai, mi stavo mandando un messaggio. Praticamente è successo questo problema. Gli ho consegnato il computer, a casa mia era perfetto, secondo te va bene il wifi. Dice lei era connessa alla wifi e oggi non li fa vedere la sua rete, li fa vedere altre reti, ma non li fa vedere la sua rete. Non dipende dal computer, ma dipende dal modem. Dice comunque il telefonino connesso alla sua rete, poi il PC non glielo fa, non li trova la sua rete. Non dipende dal computer, se non sto spiegando, poi portamelo, usa, cosa dire, devo resettare il computer perché non ti prende la rete wifi, il driver c'è nata lì, perché c'è il driver, perché le trova le altre reti sue, cioè sue, quelle che sono vicine a casa sua, ma la sua proprio no, e dice che i telefoni sono connessi, non lo so. Infatti ho detto provvisoriamente se lo connette col cavo Ethernet, io non posso fare nulla. Così deve fare. No, se il driver c'è e le altre reti le vede, dipende dal suo modem, non dal computer. Oi Angeli. C'è un attimo, chi è che, chi c'è Angeli, Angelo? Avanti Alghero. Certo che ti ascolto, un po' basso ma ti ascolto. Luca da Sassari, avanti. Se posso, se ho tempo, ho poco tempo, dai, veloce, vai. E dimmi i modelli, quanta memoria hanno questi tablet. Guarda, se mi dici i prezzi, a me me l'hanno chiesto un tablet, dimmi i prezzi, se no guarda c'è un gruppo, se, ti, se lo vuoi vendere, ci sono vari gruppi anche lì ad Alghero, su Facebook, oppure nel mio, vendo scambio a Sassari, lo metti lì, guarda, dipende, non so ma quanto ne vuoi, prova a metterlo lì, manda la richiesta, se sei iscritto su Facebook, io te l'accetto, sono io l'amministratore tanto. Luca! Aspetta, stavo parlando. Perfetto, avanti Tore. Chiedi che computer è, portatile, chiedi a vedere che computer è. No, è un portatile, un tablet. Da quanti pollici è? Ah, ho capito, lo vedo qua, su internet costa 199 euro, del 2019, 199 euro costa quel tablet. È un affare allora, Tore, un tablet che costa 200 euro, ma è usato, sta dando 150, ma è con garanzia e tutto. A fare, cavolo. No, sto cercando un portatile, sto cercando per mia figlia. Sto cercando uno. Ah, a me, guarda, a me pari fatta a porta, quando mi piace non li pone nessuno. Quando ce li ho tutti, quando non ne ho tutti me li chiedono, adesso mi ha chiesto anche un Tonino Kawasaki. A me quando mi entrano a chiamare li vogliono vendere, io li sistemo, li vendo. Se capita. L'ultimo che ho venduto è un HP nuovo, bello, è un i3 di processore, 8 GB di RAM, 320 di hard disk, era abbastanza veloce come computer, Windows 10, nuovo con la borsa e tutto, 150 euro. Sì, durai, hanno tirato un mandato, ma non avevi, è da buio, arrivederci. Non è che non me ne hai domandato a me computer, assolutamente, mi sa che mi avevi detto che ce l'avevi il PC, forse magari adesso, ma prima non me l'avevi chiesto, se non te l'avrei venduto a te, nuovo, usato però abbastanza nuovo. Te l'avevo chiesto il mese di tra gennaio e febbraio, te l'ho chiesto. Non t'avevo capito, adesso non te l'avrei venduto, io ci mancherebbe, ma comunque mi capita, no? Appena mi capita che magari se l'hai già comprato, pazienza, no? Te l'ho chiesto, ce l'hai, lo vuoi? Mi c'ho questo e questo, se ti interessa bene, e se l'hai già acquistato, pazienza. Comunque, l'amico di Alghero, a Roberto, vendo scambio a Sassari. Prova lì, poi ci sono anche altri, gruppi, lì anche ad Alghero, quindi un po' iscriviti. Scusatemi un attimo, sto ascoltando un messaggio audio su WhatsApp. Natalice, sì. E Adan, va, Angelino, dimmi. Ti ascolto, dai, più basso ma ti ascolto. Va bene, anche questo qua. Sì, abbastanza. Se ti è quello lì, va bene, per il mio baracchino che è modificato, capito? È Colt. Vabbè, ma tanto mi compro, appena apre la GBC mi compro il Midland. Se non c'è lì me lo compro su internet. No, il Typhoon. Io ce l'ho il microfono, questo qua è un microfono normale, mica amplificato. Quello che ci vuole è la capsula che c'ha quel microfono tuo, la 41, adesso è 4120 mi pare, boh. Non mi ricordo, mi ha detto Massimiliano, adesso non mi ricordo. E ci vuole quella, quel microfono lì per questo tipo di radio. O quello o il Midland. K. Io ne ho tre, c'ho questo qua che, aspetta, questo qua è, vabbè, questo è il microfono, c'è scritto sopra, poi l'altro è della Intec, sempre Palmare, normale, e l'altro è della, un altro nome c'ha, boh. Comunque sempre normali, tutte e tre normali sono. Mi lascio, ti mando la foto, aspetta. Che è quel tablet? 32? Ecco qua, qua sto leggendo. Aspetta che sta che si è aperto l'ecco, va fuori un attimo. Allora, sto leggendo qua, processore, poi aspetta, memoria interna 32 giga, 2 giga di RAM c'ha, questo no, allora non è questo. lo schermo è 10.1. Vabbè, 32 giga è un po' poco, poco. Per me personalmente è poco, perché io sono passato dal telefono da 64 giga a 128, più le 32, 160 giga c'ho il telefono, c'ho l'S10 io. Personalmente non interessa, guarda, c'ho un tablet a casa lo stesso, nuovo, praticamente questo tablet è della Samsung, più piccolo, è da 5 pollici e mezzo, forse 6, adesso non mi ricordo, vabbè, è color oro, solo che c'ha i cristalli liquidi danneggiati, è nuovo di pacca, praticamente era di questo ragazzo, no? Stava sempre attaccato a questo tablet, non studiava, la mamma l'ha preso e l'ha tirato a testa. E ha danneggiato i cristalli liquidi, a me me l'hanno regalato, Però è nuovo, ma non lo riparo perché ci volevo 200 euro a ripararlo. Da. Stavo parlando. Kappa. Sì, io il prossimo telefono che compro. Il 250, 200, vabbè, quello 250 giga mi sa, cioè, poi c'è 512, sempre Samsung, non mi dare a me iPhone, non è cosa per me, non mi piacciono, telefoni velocissimi quanto voi, però il sistema operativo proprio in sé non mi piace, preferisco Android. Dimmi Natalino. Interrogativo Luca, volevo sapere se la X50 lavora in corso oppure no. Sì, penso di sì, lei me la parlavo la U. Perché ce l'ho una qua, però non mi segna ricordo. Basta andare su internet, sei tutto, se lavora in cortocircuito o no, c'è cortocircuitato o no. Si può aprirmi, no è A. Vediamo un po' cosa dicono. Allora, vediamo un po'. Se me lo apre. Allora, la X50 mi ha detto. No, Natali, vediamo un po', non so se me la dà qua. Allora, non dice niente. Comunque, se ti dà rosse 2, l'antenna è rotta. Non so, Roberto, tu ne sai qualcosa della X50, se lavora cortocircuitata? Sì, la Diamond, la X50, sì. Se la tali cortocircuitata lavora, vuol dire che è rotta. Non rende, ho capito. Oh, Natalino, ci sei? Non c'è. Allora, si vede. No, questo è il palo. No, adesso mi palo palo, ecco. Non c'è niente qua, Vabbè, insomma, lo stai confermando tu, non c'è bisogno dei controlli. Stavo la cortocircuitata. Dice che a quanto pare non glielo segna, magari c'è un po' di ossido, magari lo dovrà fregarla un po' all'interno, magari non fa contatto bene. Sì, adesso provo a aprirla, che ho visto che c'è una brugola. Da lì, prova a fregarla bene, dove tu inserisci il PL lì, magari è un po' ossidata, prova a fregarla bene e poi se c'è una spazzola, vedi un po', e vedi se ti segna quando è circuitata. Comunque me l'ha confermato Roberto, che lui era redattore. Ehi Angeli, ehi, fai, è veloce, che poi una volta che arrivo alla mia 25 sono fregato, sono con le mani legate. Aspetta.